2000 Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 passate da pochissimi istanti, cioè un minuto per l'esattezza. Questa è la vostra emittente preferita, si chiama Blu Radio Veneto. Questa sera eccezionalmente con un qualcosa di molto particolare, molto bello, molto significativo direi, perché abbiamo una splendida voce ed è quella di Marta Rossi, ma tra poco ne parleremo meglio. Innanzitutto questa è Blu Radio Veneto, dicevo, questa è la vostra emittente preferita, questa è la voce di Agostino Spolaure che vi terrà compagnia assieme a Maurizio fino alle 22. Vi ricordo le nostre frequenze in studio che sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito è www.bluradioveneto.it e abbiamo il nostro numero telefonico che è lo 049 875 6423, se ci volete chiamare ovviamente qui in studio. Per quanto riguarda invece gli SMS, il nostro numero è il 346 23 20 033. Questo è per quanto riguarda se ci volete mandare qualche messaggio, e se questa sera anche eccezionalmente, visto che abbiamo questa grande artista, anche per fare qualche domanda, per chiedere qualcosa, per salutare, per salutare lei ovviamente. Vi ricordo lo streaming audio, cioè www.bluradioveneto.it, il nostro sito, e lì c'è un rettangolino rosa con scritto appunto Blu Radio Veneto streaming, praticamente c'è scritto sotto, c'è una freccia nera, e cliccando lì potrete ascoltarci in streaming 24 ore su 24. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Eccoci qua. Sono qua nuovamente, ero qua ieri sera, ma sono qua nuovamente per dare una mano ad Agostino questa ora un po' particolare, decisamente interessante, per esplorare un musical. È la prima volta che esploriamo un musical proprio di sana pianta con un protagonista, è cosa molto interessante secondo me, da sentire, da scavare, un'ora per poter capire che cos'è musical praticamente. Benissimo, allora io direi a questo punto di presentare l'ospite, perché è giusto, è lei la protagonista, e allora con molto piacere abbiamo al telefono Marta Rossi. Ciao Marta. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Marta. Buonasera. Come va, bene? Tutto bene, voi come state? Tutto bene? Bene, bene, grazie Marta, benissimo. Decisamente molto bene. Tanti complimenti. Sono complimenti giusti, Marta. Grazie, grazie. A proposito di questo, una certa signora, si chiama Monsieur Caballé, ha scritto: quando un cantante riesce a comprendere fino in fondo il senso della musica, automaticamente le parole suoneranno profondamente vere. E quindi è una cosa, ti ha dato un imprimatur non da poco, Marta. Cosa dici? Beh, sì, è una bellissima definizione che mi descrive molto, e quindi è, diciamo, l'inizio della mia biografia, se si può dire così. E sì, mi descrive molto, e sono molto contenta, perché comunque questi sono, come dicevi tu, un grande musical. Adesso ho realizzato il mio primo CD, quindi sono molto contenta di tutto quello che mi sta capitando. Esattamente, quindi è la seconda partecipazione tua a questo musical, è una cosa molto importante secondo me. Guarda, adesso è il secondo anno che va in scena, però il primo musical che ho fatto è Peter Pan di Pennato, sì, esattamente, nel ruolo di Wendy, che comunque porto sempre nel mio cuore. È stato il primo musical che mi ha lanciato un po' in questo ambito teatrale, che comunque è molto difficile e ha una, diciamo, c'è molta critica, nella critica teatrale è abbastanza dura, quindi diciamo non è stato facile per me, però sono contenta di aver avuto delle bellissime critiche e di essere approdata così in questo campo. Allora, si parla tanto di questo musical, diciamo subito di cosa si tratta. Tu domani sarai a Padova dal 7 al 10 di aprile per questo musical che si chiama We Will Rock You, il musical con le canzoni dei Queen, scritto proprio dai Queen e da Ben Elton. Fai, vai avanti, spiega. È l'urlo sotto Marta, è l'urlo. Marta, ci sei? Ci sei. In Germania, in Giappone, praticamente c'è dovunque. E quindi è un musical bellissimo, c'erano le canzoni dei Queen, la storia dei Queen, questa storia un po' inventata, no? Che ricorda molti personaggi del musical, Io sono Scaramouche, sì, che è la protagonista femminile, rappresenta un po' Brian May, no? La chitarrista, Brian May al femminile, quindi sono la chitarrista donna del... Marta, perdonami se ti interrompo, ci vuoi raccontare un po' la storia di questo musical, cioè di cosa si tratta? Guarda, è una storia bellissima perché rappresenta, è ambientata nel 3011, nel futuro, e praticamente il mondo si chiama Globalsoft, che è comandato da una cattiva che si chiama Killer Queen. Praticamente lei ha bandito il rock sul pianeta e tutte le persone ascoltano solo musica digitale, non musica live, musica comunque computerizzata. Quindi cioè, il bello della musica è andato in rovina perché lei lo ha bandito. E i due protagonisti, che sono Galileo e Scaramouche, che sarebbero Brian May e Freddie Mercury, riportano il rock ritrovando questo strumento musicale che i Queen avevano nascosto per in attesa di questo salvatore, no? E quindi riusciamo a riportare il rock sul pianeta. Una bellissima storia che è anche molto divertente perché ci sono molti lati comici e poi diciamo non è un vero, cioè non è un musical, è un'opera rock, perché comunque noi cantiamo 25 canzoni dei Queen, quindi ci divertiamo parecchio. Immagino, anche perché ci sono canzoni che sono tra le più conosciute, tra le più famose, insomma. Eh sì, no, questo musical racchiude un po' le canzoni più belle. Abbiamo Somebody to Love, Another One Bites the Dust, Under Pressure, Wants to Live Forever, ne abbiamo tantissime, sono tutte bellissime. Bohemian Rhapsody, We Are the Champion, le più conosciute, beh, comunque sono tantissime, la gente si diverte, poi le canzoni sono tutte in lingua originale, quindi diciamo non abbiamo snaturato i Queen. Certo, certo. Abbiamo già un messaggio, Marta, per te. Dice: un grande abbraccio ad una persona speciale ed unica, continua così grande come sei, Gioia. Oh, che carina, grazie Gioia. Vedo che hai molti ascoltatori e molte persone che ti seguono, insomma. Ah sì, guarda, ne ho tantissime. Poi a me piace rispondere a tutti loro, perché io ho una pagina, certo, Facebook, dove racchiudo un po' tutte queste persone che mi seguono e vogliono seguire un po' il mio percorso. Mi piace rispondere a loro e mi piace anche seguire i loro consigli, perché le persone da fuori magari riescono a darti a vedere delle cose che magari tu non riesci a vedere, no? Certo. Quindi seguire un po' i loro consigli, vedere un po' i loro pareri è sempre una cosa che mi dà... mi fa molto piacere, quindi e ti fa, e se mi permetti ti fa anche molto onore, perché essere umili e essere semplici e umili nella vita è una cosa, secondo il mio punto di vista, molto ma molto importante. Ma sì, è una cosa basilare, anche perché comunque nella vita non bisogna mai pensare di essere arrivati. Questa è una cosa che i miei genitori mi hanno sempre insegnato da bambina. Infatti, come vedi, sono una di quelle che si prende un po', come si dice, valigie e valigette, va a fare i provini, perché comunque bisogna sempre migliorare e c'è sempre qualcosa che ti fa imparare, no? Certo. Quindi io sono una di quelle che quando c'è qualcuno che mi dice qualcosa cerco di capire se è vero quello che mi dice e se è vero di migliorare, di cercare di fare sempre del meglio, ecco. Beh, io in questi giorni, tra virgolette, perché un po' che ci sentiamo io e te, quando ci siamo sentiti anche al telefono, ho imparato a conoscerti un po' dal punto di vista umano e secondo, guarda, potrei dirtelo anche guardandoti negli occhi, ma sei una splendida, veramente una splendida persona. Grazie, grazie. Io ricambio altrettanto perché sei stato gentilissimo, anzi, guarda, devo dire, spieghiamo un po' quello che è successo, perché poi certo, tu mi hai spiegato un po' tutto come si svolgeva l'intervista, quindi sei stato anche molto carino, mi hai spiegato tutto quanto precisamente, è una cosa che non fanno tutti. Vabbè, insomma, dobbiamo comunque mettere a loro agio gli artisti, a parte che noi lo facciamo anche normalmente, questa sensazione, diamo questa sensazione di star bene, perché è giusto che sia così. Diventa una chiacchierata tra amici in pratica, capisci? Certo, ma è così, perché comunque quando è una chiacchierata tra amici si è sinceri e si è, come si dice, si è aperti, no? Nel senso che comunque la gente si rende conto che si è veri in quello che si dice, ed è una cosa bellissima, no? Certo, certo, qui ti do perfettamente ragione. C'è un altro messaggio, Marta dice: ciao piccolina, con tante A, ti mando un abbraccio enorme, spacca tutto a Padova, ti voglio bene, un bacio da Lina. Oh, Lina! il mio fan club praticamente si sta sbizzarrendo. Lina! Tra l'altro Lina mi ha, ti dirò, l'ho sentita prima che mi ha mandato un messaggio su su Facebook e mi ha scritto se passavo da Padova, perché così riuscivo, se non passavo da Verona prima di andare a Padova, perché così riuscivo a vederla, ma purtroppo vado direttamente a Padova in macchina, quindi non riesco a vederla. Immagino. E mi dispiace molto. A che ora riprendiamo il discorso del musical? A che ora comincia il musical allora? 9:30. Sì, fa un po' caldo, quindi cominciamo, diciamo, ad avere gli orari estivi. Certo, beh sì, giusto. Marta, come ti sei calata nella parte di Scaramouche, una parte difficile ma importante? Tu che hai fatto tanta gavetta, cioè ti sei formata musicalmente partecipando ai concorsi, ti sei fatta vedere anche musicalmente davanti al pubblico prima di partecipare al musical. Come si è calata in questa parte, che non è facile chiaramente? Sei stata scelta da Brian May, d'accordo, però era difficile. Beh, ha avuto, diciamo, una selezione abbastanza dura, eh. Poi lui, sono contenta che mi abbia scelto, perché sono soddisfatta, forse una soddisfazione più grande di tutta la mia vita, essendo una cantante, essere scelta comunque da lui è una grande, veramente, soddisfazione. Di Scaramouche, chi mi conosce sa che è molto simile a me caratterialmente. Io sono un po' una pazzerella nella vita, nel senso che dico sempre quello che penso, sono una di quelle che non si lascia mettere i piedi in testa, perché comunque io penso che bisogna avere carattere nella vita, e quindi nulla, lei è molto simile a me, però devo dire che a livello recitativo mi ha dato molto che soffrire, perché ci vuole un grande studio dietro. Mi rendo conto che anche a differenza di un anno sono migliorata molto nella recitazione, in questo personaggio, diciamolo, sono riuscita ancora più a modellarlo. Non sì, sì, va bene, parola, va benissimo, va bene? Così. tranquilla. E bla bla bla bla. e quindi un po' a farlo su misura, ecco. Tu che sei un eccellente soprano, hai una voce potente, deve esserci la voce potente, perché qui hanno le voci potenti. Dimmi. Se mi vedi sono una scriccioletta, quindi voi dimmi, ma dove viene la voce? diciamo subito che sei già conosciuta per molta gente, per molte persone, perché ti hanno visto per Amici, giusto? Nel 2007, se non sbaglio. Sì, 2007-2008, okay. È l'anno che ha vinto Marco, Carta. È stato un anno, diciamo, importante, perché ha lanciato un po' quel programma a livello discografico. Da quell'anno in poi hanno cominciato a fare i dischi, Amici un po' si è sviluppato anche a livello discografico. Certo. E sì, sono molto felice di aver fatto anche questa trasmissione, perché mi ha dato un lancio, no, in questo ambiente dei musical, anche perché comunque mi avevano visto anche in televisione per Peter Pan. È normale che dalla TV uno sapeva, diciamo, aveva fatto una piccola preselezione, no? Sapevano già come cantavo, come un po' che personaggio, diciamo, il personaggio di Marta, no? Però devo dire che al di là di Amici bisogna comunque lottare tanto, perché certo, i provini sono tanti, la gavetta è tanta, e di persone brave ce ne sono molte in Italia, fortunatamente siamo pieni di talenti, quindi mai abbassare la guardia e mai smettere di studiare. Certo. A proposito di gavetta, hai fatto un concorso molto importante, il concorso Mia Martini, quindi. Sì, ne ho fatti tantissimi, io ho vinto Sanremo Rock, ho fatto Castrocaro, Mia Martini, sono arrivata in finale, ne ho fatti tantissimi. Poi guarda, ne avrò fatti insieme a mio papà, che mi portava in giro per questi concorsi, un centinaio, non voglio esagerare. sì, lui, io ho cominciato quando avevo 5 anni, quindi mio papà mi portava un po' in giro per tutta Italia, riconosceva in me un talento e io lo facevo per gioco. Lui si divertiva perché mi portava in giro un po', poi quando abbiamo capito che poteva essere una cosa un po' più importante, abbiamo, diciamo, siamo andati un po' con i piedi di piombo, no? Abbiamo detto, ma lo faccio o non lo faccio? Poi mi sono resa conto che il canto era la mia vita, quindi ho continuato questo mestiere. Certo. Scusami Marta, quante ore di studio per calarsi bene nel personaggio ogni giorno? Guarda, adesso una volta che facciamo, allora funziona così, che si fanno mesi di prove. L'anno scorso, per portare in scena lo spettacolo, visto che era la prima volta, abbiamo fatto 2 mesi di prove. E poi il personaggio comunque lo perfezioni sul palco man mano che fai le repliche. E quest'anno un mesetto di prove, quindi sì, ci vuole molto. Ma poi al di là delle prove c'è lo studio a casa, no? Quello che fai a casa personale per imparare la parte. Ci sono, diciamo, quando soffri a casa e dici devo ricordarmi tutte le battute, devo farle in un modo particolare, perché poi guarda, il mio personaggio è un personaggio comico, quindi se non fai ridere è un problema. Io prendo la palla al balzo, Marta, se mi permetti. Sì. E vorrei fare ascoltare un pezzettino di questo musical, che ne dici? Ok, Va benissimo. C'è questa parte bellissima iniziale, qualche secondo, dove tu stai dialoghi con un'altra ragazza. Ah sì. C'è una parolina bella. Tra l'altro ti spiego anche questa parola. Sì. Perché praticamente io sono la ribelle, no? Sì. E sono la ragazza che non si veste alla moda, che si fa la sua musica, che cerca un amore, la classica ragazzina che comunque vuole essere indipendente, fuori dalle regole, no? E quindi ci sono queste ragazze, Gaga si chiamano le altre ragazze, che mi prendono in giro perché io sono una di quelle che veste di nero, non veste di rosa, per esempio. Che magari non si fa i capelli alla moda, che non segue le tendenze, insomma tutta questa cosa qui, quindi mi prendono in giro. Certo. Io gli dico va bene, sono anche così, e poi gli dico quella parolina e comincio a cantare. Guarda, e sono anche più delicata, perché nella versione inglese la parola è un'altra, quindi... Ho capito. Senti, io direi di farla ascoltare allora questa come dire, questa canzone, ma preceduta da qualche secondo di questo dialogo simpaticissimo. C'è qualcuno da amare, giusto Marta? C'è qualcuno da amare sempre. Ok. Somebody to love. Sei proprio triste? Sola e disperata? Oh, sì, hai ragione, sono proprio triste. Stronza. Find me somebody to love. Each morning I get up and dial in. Can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Look what you do in a me. I spell my something. Love. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Hai tenuto una nota tantissimo. Sì. Marta. Ma... non abbiamo contato i secondi dell'acuto, Marta. Assolutamente. Bravissima, bravissima. Complimenti veramente di cuore, perché sei eccezionale, Marta. Grazie. Mi hai veramente colpito con la tua musica, ma, e con la tua voce soprattutto, ma ci sono messaggi che arrivano, qui ti rileggo. Marta, sei sempre la migliore, ti voglio bene, Ellie. Oh, Ellie, anche lei fa parte del mio fan club. Ormai sono amiche per me, cioè nel senso che sono tutte delle mie amiche per me, nel senso che io le considero veramente delle mie sorelline, perché non avendo avuto sorelline, ho tutte queste mie cipe crew, le chiamo. C'è un gruppo che si chiama Cipe Crew, che saluto, che sono le cipe, le crucciole sono le mie fan, le cipe. Perché mio papà mi chiama Cipollina, quindi si chiamano Cipe Crew, quindi sono quelle che adoro e le saluto col cuore. E poi ce n'è un altro che dice: Scaramuccia, sei il nostro orgoglio, siamo sempre con te, non mollare mai, ti vogliamo bene, il tuo mitico staff. Oh, grande! Dobbiamo ricordare una cosa, Marta, che questo spettacolo, questo musical, sì, ha avuto, cioè, il successo italiano è stato decisamente grandissimo, ma il successo mondiale di questo musical è che è stato il musical che ha superato come Grease nel record, praticamente. È stato, sì, è stata una cosa straordinaria, superare il record di Grease non era facile. No, abbiamo venduto parecchio, è un musical che ha molto... Beh, del resto anche Peter Pan. Anche Peter Pan, esattamente, esattamente. Sì, sì, ha vinto il biglietto d'oro in Italia, quindi comunque era uno dei musical più visti. E, sì, sì, vabbè, siamo molto contenti. Perché secondo te grande successo dei musical anche in Italia, a tuo parere? Ma perché secondo me ci vuole un po' di teatro, di questa cultura in Italia. All'estero io ho visto che comunque... i teatri sono fissi, quindi se vuoi vedere uno spettacolo, per esempio, vai e ti prendi il biglietto, sai che lo trovi lì, che comunque c'è un teatro costruito apposta per vedere quel musical. In Italia abbiamo un po' la concezione del teatro in tournée, quindi siamo noi teatranti a girare per il resto d'Italia. Però comunque io penso che in Italia abbia bisogno anche di questo, perché troppa televisione, un po' troppa anche del TV spazzatura, no? Invece col teatro si può anche imparare, si possono veramente vedere cose nuove, talenti dal vivo, e poi è bello, perché comunque noi siamo un po' un popolo di teatranti, no? Quindi siamo cresciuti un po' con questa, un po' si è persa poi negli anni, però comunque siamo nati col teatro. Sì, certo, certo, sì, hai ragione. Sì, sono d'accordo con te, siamo andati, sì, un po'. Uno pensa un po' alla televisione, comunque la TV è frutto anche del teatro, no? Inizialmente non c'era solo il teatro, no? Certo. Uno che cosa facevi? Andavi a vedere l'attore a teatro, adesso lo vedi in TV. Già dai tempi di Roma comunque c'era il teatro, giusto? Sì, certo, il teatro romano, vabbè, cioè, comunque siamo nati, quindi il teatro, questa riscoperta è bella, perché comunque la gente viene a teatro, si diverte, fa passare una serata diversa. Con i Queen è ancora meglio al teatro, la musica Queen. Certone, poi alla fine vi alzate tutti, guarda, poi lo vedrai quando vendrai a vedere lo spettacolo, vi alzerete tutti, canterete con noi, stai sicuro, perché le musiche dei Queen sono troppo coinvolgenti, sono musiche che ti portano comunque a... hanno fatto la storia della musica mondiale, quindi è sono musiche che sia giovani, sia persone un po' più adulte sono... e ricordano molto quello che è la musica, no? Quando pensi ai Queen pensi alla vera musica, al rock, quindi... Certo, è giusto, è giusto. Senti, ma che effetto ti fa essere una Queen femminile, tu? Ah beh, io sono in pratica, in pratica tu sei veramente una quinta Queen, si può dire, tu canti tutto quello che è Queen. E poi ti faccio anche un'altra domanda, così mi collego subito. Io so, ho visto da qualche parte, c'è anche uno spezzone su YouTube, che durante una delle vostre esibizioni c'è stato anche l'intervento di Brian May. Sì, giusto? nella prima a Milano. Che effetto ti ha fatto avere un personaggio del genere? Io mi stavo sentendo male. Immagino. Praticamente devi sapere che lui esce sulla solo di Bohemian Rhapsody alla fine dello spettacolo. E io sapevo che lui usciva perché aveva fatto le prove con noi pomeriggio, quindi sapevamo che c'era lui e tutto. Insomma, praticamente io prima esce Galileo nella canzone e fa il primo pezzo di Bohemian Rhapsody, poi esco io e faccio il secondo pezzo di Bohemian Rhapsody, dopo che esco io esce Brian May, no? Allora, sapendo che c'era lui dietro, che da un momento all'altro usciva, tu non puoi capire, io ero in lacrime, c'erano tutti i fan dei Queen sotto il palco, perché comunque sapevano che alla prima ci sarebbe stato lui, io in lacrime, ho detto, non sono riuscita quasi a cantare, cantava il pubblico. E se eri in lacrime con lui lì, quando ti hanno invece chiamato per dire ci fai le canzoni nostre, i Queen, proprio loro, cosa hai fatto? Guarda, quando tu ti parli della collaborazione del disco, cioè per We Believe, ma è nato per caso, ti dico la verità, inizialmente era un regalo che io volevo fare a lui, perché lui mi ha scelto tramite... Lui mi aveva visto casualmente tramite un video di YouTube, il video di Love of My Life, e poi mi ha sentito le audizioni e tutto, però diciamo era un regalo che volevo fare io a lui per la gentilezza che aveva avuto, è stato molto paterno nei miei confronti, perché lui ha una figlia della mia età, quindi un po' ha rivisto sua figlia, no? E io sono molto giovane, quindi lui, diciamo, per lui era strano vedermi su un palco a quest'età. E quindi niente, lui ha deciso di collaborare a questo brano, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto questa traduzione italiana fatta da Raffaella Rolla. È venuto bellissimo, quindi una grande soddisfazione. E poi lui l'ha presentato, ha fatto un video su YouTube dove ha presentato l'album, quindi... Sì, poi magari ne parliamo. Io volevo sapere cosa ti dava come sensazione di essere lì con lui, insomma, credo che quindi sia molto emozionante. Emozionante, guarda, questo è bellissimo. È come se, non so come dirti, se c'è quello che vuoi fare nella vita, è la persona a cui ti sei magari ispirato, no? E quindi io ho sempre visto i Queen come qualcosa di irraggiungibile, come Freddie Mercury, che... E poi alla fine mi sono ritrovata lì a lavorare con una persona che ha lavorato con un mio mito, che comunque è Freddie Mercury, che per me è una persona veramente che non esisterà mai più nessuno come lui, che per me è inimitabile, capito? Quindi lavorare con Brian May, che ha lavorato con lui, per me è una cosa che non riesco a descrivere. Certo. Senti, si sta parlando di emozioni. Io mi allego subito a queste cose, a queste parole, perché c'è la canzone che, come ti ha conosciuto Brian May, anch'io ti ho conosciuto con quella canzone. Modesta... me la devi mandare. È vero che ti ho detto così, ti ricordi? Sì, ricordo. Allora, c'è una canzone, dovete sapere, cari ascoltatori, intanto ne approfitto prima di tutto per ricordarvi il nostro numero di SMS, se volete mandare qualche messaggio a Marta, il 346 23 20 0 33. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara stiamo cercando di conoscere un po' di più questa scaramuscia italiana, questa splendida Marta Rossi, che ha una voce veramente incredibile. Ah, tu sei troppo buono! No, poi mi paghi, lo sai che poi mi devi pagare. Va bene, quanto vuoi? 100 euro, 200 euro? No, mi basta la tua simpatia, che è già grandissima. Allora, dicevo, io cercando, perché sono abituato spesso a navigare così in internet, a cercare su YouTube anche dei personaggi non molto famosi, eccetera, mi sono fermato veramente su questa canzone. E lo dico, non mi vergogno a dirlo, mi sono commosso. E da lì poi è nata tutta la ricerca, il contatto con Marta, e si è verificata anche che è una persona, come dicevo prima, splendida, e questo lo confermo. Io direi, Marta, se tu sei d'accordo, ci emozioniamo insieme e emozioniamo i nostri ascoltatori con la tua splendida voce in una canzone che Brian May si è innamorato, giusto? Sì, si è innamorato di questa versione. Poi detto da lui, capito? Poi tra l'altro devi sapere che è anche una delle mie canzoni preferite in assoluto. L'ho già proposta. Sì. Ti puoi capire allora. Sì, ti posso capire. E ce l'ascoltiamo? Facciamo ascoltare a tutti? Va bene. Presentala tu. Allora. Mi viene da ridere. Love of My Life per tutte le persone che vogliono emozionarsi. No. because you don't know what it means to me. È sicuramente l'amore che metto in quello che faccio. Senza questo amore non mi verrebbe nemmeno una nota né una parola. Se lo faccio è perché questo mi rende viva sul palco. È l'unico modo che ho per essere vera. Parole di Marta Rossi. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rieccoci qui con Marta. Ci sei? Marta? Marta? Marta? Marta, ci sei? Marta? Pronto? Sentite? Sì, adesso okay. ti sentiamo. Ok. Mi sentivo. Ho letto la tua frase. Sì, dicevo, forse non mi avete sentito. No. Ho provato a stare senza questo lavoro, però non ci sono riuscita perché non riesco a farne a meno. Insomma, immagino. È proprio la tua principale attività, insomma. Ma io ho tanti hobby e tante ambizioni, no? E mi piace molto, io sono diplomata in grafica, specializzata in fotografia, ho lavorato come grafico, come fotografo, ho fatto un po' di tutto, no? Però mi piaceva anche molto il lavoro che facevo, però il canto è la cosa che porto da quando sono bambina. Il live, la musica dal vivo. Assolutamente. Sì, in live, la musica dal vivo, i concerti. I concerti. Mi piacciono di più, sì. E a proposito di musica, abbiamo parlato abbondantemente, non abbondantemente, ma abbiamo sviscerato il discorso del musical, ma parliamo anche del tuo EP, il tuo disco. Il disco, sì, è uscito finalmente dopo anni di lavoro. Che si chiama? Il titolo? Musica? Musica sarà. Perfetto. Dopo quanti anni di lavoro, Marta, è uscito il tuo disco? Guarda, io ho fatto Amici 3 anni fa, quasi, dopo 3 anni e mezzo fa. Ho cominciato a lavorare a questo disco subito dopo Amici, e quindi nel 2008, sì, fine 2008. Solamente che poi avevo la tournée con Peter Pan e non sono mai riuscita a concludere, non avevo molto tempo perché ero sempre in tournée e non riuscivo a dividere le due cose, no? Sì. Poi è nato We Will Rock e tutto, e poi siccome adesso ho avuto un momento di pausa, ho deciso di finire il disco, poi con l'aiuto di Brian, cioè di molte persone che lavorano con me, tutto il mio staff, che veramente sono tanti, e io li ringrazio tantissimo perché ognuno si occupa di una cosa e mi fanno veramente, delle volte io che sono una di quei tipetti che si occupa sempre di tutto, no? Che vuole vedere tutto, sta sempre dietro ad ogni cosa, avere loro che mi, una che mi occupa, si occupa di una cosa, una che si occupa di un'altra, mi veramente mi rincuora tantissimo, anche soprattutto perché ci credono tanto in me, è una cosa che mi emoziona tanto. E quindi dopo 3 anni e mezzo è uscito il disco, ci lavoravo da 3 anni. Quindi la benedizione musicale di Brian May cosa ha dato a te praticamente, oltre a riprendere il pezzo suo in versione tua praticamente? Certo, beh, ha dato tanto, perché comunque considera che l'Universal Music mi è piaciuto molto il progetto, perché comunque era un progetto qualitativamente alto, quindi c'erano grandi musicisti, poi vabbè c'è anche Neil Murray, Tristan Avakian, sì, certo. Comunque sono nomi importanti, c'è Gatto Panceri che ha scritto dei testi. Quindi diciamo artisticamente era un progetto importante, è un progetto importante. Poi avere la benedizione di sicuramente dei Queen ha dato quel diciamo quel di più per essere lanciato dall'Universal, che comunque non è facile, sai benissimo che non è facile farsi, diciamo, avere una casa discografica così importante, soprattutto per me che sono un'ex ragazza di Amici, che magari diciamo la sua piccola occasione l'aveva già avuta 3 anni fa, no? Certo. Quindi sei riuscita, nonostante tutto, ad andare avanti. Il musical ti ha dato una spinta importante, però per metterci proprio davanti come musicista solista non è mica semplice, è difficile. Non è semplice. Poi comunque, come ti dicevo, la nostra piccola occasione, noi ex ragazzi di Amici, un po' diciamo sfortunati, no? Perché non abbiamo avuto il contratto discografico, perché non c'erano le discografiche allora ad Amici. Solo Marco aveva avuto il contratto, quindi ci siamo dovuti un po' formare da soli. Poi per me, che mi piace veramente, come ti dicevo, il live, quindi crearmi, cioè sapere curare gli arrangiamenti, curare i testi, curare anche la copertina del disco, ho fatto un po' di tutto, essendo un grafico mi sono vista anche la copertina, capito? Chiaro. Quindi, sì, tra l'altro è stranissimo quella copertina, perché tu sei su questa sedia in un abbigliamento un po'... Ma guarda, ti dirò, è un po' una presa in giro, sì, no? Una ovvio. Copertina, perché primo perché poi se mi vedrai dal vivo io sono piccolina, sono veramente 1,60, quindi non sono una spilungona, ed è un po' una presa in giro, nel senso che anch'io che sono piccolina posso fare diciamo la vamp, no? Un po' come fa Britney Spears o come fa Lady Gaga. E poi è un l'essere anche senza vestiti, e poi è un liberarsi un po' da tutto, no? Come per dire, sono solo io e la mia musica, non c'è nient'altro. Certo. Ma tu ci credi molto in questo disco, lo leggevo in qualche parte. Sì, no, ci credo tantissimo. Poi veramente chi mi conosce sa che quei testi sono veramente io, sono come se fossi io stessa a parlare. Descrive molto me, descrive delle situazioni che mi sono capitate, poi musica sarà scritta poi insieme a Gatto Panceri, proprio descrive quello che io provo per la musica, che secondo me è un po' quello che diciamo quello che pensano un po' tutti gli artisti in generale, no? Perché la musica, chi crede nella musica per loro è musica e sarà sempre musica, in qualsiasi cosa, quindi la mettono prima di ogni altra cosa, nel senso non mettono la fama, il successo, mettono in prima la musica, poi se quello viene, però chi ama la musica mette al primo posto la musica e dopo il successo, come dicevo, la fama, i soldi e tutto. Sono pienamente d'accordo su questo, anche perché così nasce la cosa tua, personale. Certo. Poi oltre alla musica è naturale che io mi accosto alla mia famiglia, no? Quindi quella che mi ha aiutato, che mi sta sempre vicino, mio padre, mia mamma, i miei fratelli, però vicino ci sta la musica e basta. Marta, sei grande, ogni volta che sento la tua voce mi emozioni, baci il tuo crew. Oh, il mio crew? Chi sarà questo mio crew? Ma non sarà... c'è il mio crew, ha scritto crew, basta. La crew, sì, perché i miei gruccioletti. Allora, io direi a questo punto, visto che me l'hai accennata, approfondiamo un attimino il discorso sulla canzone che ti ha scritto, che avete scritto, insomma, che avete collaborato insieme con Brian May, che fa parte di questo tuo nuovo disco. A proposito, ne apro una piccola parentesi, siccome ti sta ascoltando tutto il mondo, perché siamo anche in streaming, io voglio strapparti una promessa. E io so già cosa che vado avanti con la domanda? Vai avanti. Ecco. Allora, io ti voglio invitare chiaramente qui in studio a Blu Radio Veneto a farci un live, un'intervista qui di persona, voglio dire, insomma, ci canterai e suonerai qui dal vivo, magari accompagnata da chi vuoi tu come musicista, e ci fai questo regalo? Allora, io prometto qui davanti a tutti i streaming, quindi davanti a tutto il mondo, che verrò a questa radio, Blu Radio Veneto, a fare il live con voi, perché siete gentilissimi, siete stati carinissimi con me, lo siete tuttora, veramente siete simpaticissimi, tra l'altro, e non è da tutti. E quindi prometto, parola di lupetto, come dice così. Guarda che è stato registrato tutto, lo metterò. Okay. Caspita, m'hanno beccato. Sì. Allora, parliamo di questa canzone, così poi l'ascoltiamo. Va bene, ok. Dimmi, allora, com'è nata questa? Ripercorriamo un po' le tappe. Beh, scusami. Ti dicevo, era un regalo che volevo fare io, sì, a Brian. E poi è nata questa collaborazione, perché comunque questa è una canzone a cui lui tiene tantissimo, perché parla, poi guarda, neanche farlo apposta, mai come in questo momento, in questo periodo, questa canzone si descrive un po' quello che stiamo passando, perché parla del mondo, del male che magari l'uomo stesso può fare anche alla natura, alle cose che lo circondano. Quindi tutte queste tragedie che stanno capitando adesso capitano proprio in un, veramente sembra che la canzone sia stata scritta proprio per questo. E Brian voleva descrivere appunto tutto questo male che si fa alla natura, che l'indifferenza della gente provoca anche a te stesso, no? C'è una parte, la prima parola della canzone dice: credo che nel mondo ci sia troppa indifferenza, no? E penso che già su questa frase si possa veramente aprire un capitolo enorme, perché delle volte si è indifferenti davanti a un ad un cagnolino che magari viene abbandonato, maltrattato, come ad altre cose magari ancora più gravi, e mi fanno pensare tanto. Poi io, che sono un ambientalista veramente, amo gli animali, amo l'ambiente, condivido appieno quello che è il pensiero di Brian. Certo. Che tra l'altro ti dirò, lui ha aperto una campagna per la salvaguardia delle volpi, che si chiama Save Me, che sai che in Inghilterra vengono uccise molte volpi, sì, per sì, la caccia alla volpe. Io penso sia veramente una cosa bruttissima, perché comunque le volpi devono essere una specie protetta, perché stanno in via di estinzione, ed è una cosa che io veramente invito tutti a partecipare a questa campagna, che è una campagna bellissima, e a salvaguardare queste volpi e magari a fare un'opera di beneficenza per questi animaletti che veramente vengono uccisi solamente per il divertimento dell'uomo, ed è una cosa bruttissima. Beh, lì in Inghilterra i VIP soprattutto sono amanti di questo sport, di questa lo so, ma infatti è una campagna molto dura lì in Inghilterra, però veramente ne sto sentendo tantissime, come ho sentito anche a Striscia la Notizia, le Pereiras, per gli animali, per i cagnolini che vengono uccisi perché vengono abbandonati, cioè una cosa bruttissima. Io poi veramente sono sensibilissima a questo argomento, non riesco proprio quasi a parlarne, però grazie anche a questa canzone, credimi, porto avanti questo pensiero, e anche nel mio sito parlo spesso degli animali, dell'uomo, di tante cose, e spero che tante cose si possano risolvere, che magari questa canzone faccia riflettere un po' di persone. Certo. Senti, una piccolissima mia curiosità: come mai l'hai divisa in due parti, cioè italiana e inglese, questa canzone? Ma ti spiego subito, perché allora, è una canzone che prima di tutto dura molto di più. Brian May l'ha scritta e durava sui 6 minuti, quindi era molto lunga per essere radiofonica, quindi l'abbiamo già accorciato, una versione radio questa. Okay. E poi l'ultima parte, perché in inglese aveva un significato talmente profondo, mm-hmm, che quella parola, se cioè, trasformata in italiano, perdeva, cioè ci volevano altre 2 o 3 strofe, certo, e abbiamo deciso di lasciarla originale perché più dava ancora più il senso, quindi abbiamo deciso di lasciarla in versione originale nella parte finale. E comunque è bellissima, comunque. Grazie. L'ascoltiamo, Marta, che dici? Va bene. Dai, ti lascio l'onore anche di questa. Come si chiama? Si chiama We Believe, credimi. Ed è un brano veramente molto bello, spero vi piaccia. Quindi per voi We Believe, credimi. Nel mondo ci sia troppa indifferenza. Credi che è tempo di pace e di una nuova coscienza? Ascoltiamo, del mondo esplode rabbia e insofferenza, e crediamo che è un peccato, ma la ruota gira e se ne va. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:49 in questo preciso istante, ancora qualche minuto in compagnia di Agostino e di Maurizio, con soprattutto con una splendida cantante, eclettica secondo il mio punto di vista, salta da un'emozione a un'altra, da un tipo di musica a un'altra, ma è comunque bravissima, Marta Rossi. Oh, grazie. Possiamo dire del disco, Marta, un buon connubio tra il rock e il pop? Cosa dici? Sì, è un disco rock-pop, sì. Ma poi tocca tanti generi, hai ragione. Va da una ballata classica come Musica sarà, a una ballata rock come We Believe, a un dance come Life Goes On, tocca anche tipo un po' gli anni Ottanta, ha tanti generi, perché comunque mi piaceva avere un disco un po'... che non fosse tutto uguale, avesse toccasse anche tanti generi diversi, perché la musica è la tutta, quindi mi piace un po'. Appunto. E Brian May in gonnella non può essere non rock, chiaramente. Certo. Ma gli stessi Queen cambiavano un sacco, sì, è vero, vero. Genere, quindi sempre rock, però comunque certo. E avevano tanti stili anche loro. È vero. A proposito di Queen, lo sai, Marta, sono stati ristampati i primi 5 album di Queen con delle cose un po' particolari, di stampe deluxe, proprio di recente. Sì, sì. Tra l'altro ne approfitto per dire che si sentono benissimo, quindi si sentono anche meglio di, delle vecchie, esattamente. Sì, si sentono meglio, li ho qui con me, non posso non averli. Immagino. Immaginiamo. Anche perché sono stati stampati dalla Universal, esatto, quindi sì. Sentono benissimo. Quante ore al giorno ascolti Queen? Oddio, mio ragazzo non mi sopporta più. Posso immaginarlo, insomma. Mamma mia. Senti, io ne approfitto, se no altrimenti poi mi dimentico. Volevo salutare veramente di cuore con affetto Alessandra, che mi è stata molto cordiale, molto gentile, molto vicina in questi giorni che abbiamo parlato di te, insomma. Quindi ciao, sì, Alessandra. È bravissima, è una ragazza che veramente mi segue dappertutto, mi segue in tutto quello che faccio ed è fantastica. Io ne approfitto ogni volta in ogni intervista per ringraziarla di cuore e di veramente di farle presente che il suo lavoro è fondamentale per me. Certo. Ciao Alessandro, allora un bacio da Agostino, da Maurizio e da Blu Radio Veneto, ma anche e soprattutto da Marta Rossi. Senti, abbiamo ancora qualche istante, facciamo un po' di dati tecnici, cioè il tuo sito, dove si trova il disco, il musical, eccetera eccetera. Allora, guarda, il musical è a Padova da giovedì a domenica, e domenica ricordo che è una pomeridiana, eppure sabato pomeriggio c'è la pomeridiana, e poi il disco invece Musica Sarà, lo potete trovare in tutti i negozi di dischi, e tra l'altro se non riuscite a trovarlo oppure se lo volete autografato direttamente sul mio sito abbiamo aperto una sezione, il sito che è www.martarossi.it, e abbiamo aperto una sezione dove è possibile, diciamo, prendersi il mio CD autografato direttamente a casa, e poi però comunque nei negozi di dischi si può trovare tranquillamente. E poi cosa volevi sapere? Mi sono scordata. il tuo sito? Sì, martarossi.it è il mio sito, poi lì è presente anche il mio Facebook, quindi per tutte le persone che vogliono seguirmi anche su questo social network, ci sono anche lì, c'è Twitter, ci sono tutte le informazioni, sono raccolte in questo sito. Il tuo numero di cellulare, l'indirizzo se qualcuno ti vuole portare a cena? No. Vabbè Marta, siamo arrivati praticamente alla fine, facciamo ascoltare adesso la canzone che dà il titolo al tuo lavoro, giusto? Sì, giusto. Facciamo ascoltare Musica Sarà, e prima di salutarci io veramente di cuore ti voglio ringraziare di questa partecipazione. Grazie a te, veramente. E spero di risentirti, ma a parte che insomma me l'hai promesso, quindi insomma vieni. Sì, ho promesso, parola di Lubetto. Quindi ascoltatori, avremo qui Marta Rossi a presentarci il suo disco, e non solamente, magari ci farà anche qualche cover come Love of My Life, magari ce la fai in diretta, che quindi ci emozioneremo tutti ancora un'altra volta. E ringrazio Alessandra, dicevo, io con te ti vedo venerdì. Va bene Marta? Va bene, vi aspetto a teatro. Ci vediamo venerdì in teatro, vediamo vedere questo splendido musical che ricordo dura circa 3 ore, se non sbaglio. Sì. Sarà qui al Teatro Geox di Padova. E Marta, un abbraccio, un bacio, un grazie anche da parte di Maurizio. Ciao Marta. Ok, grazie mille, ciao Maurizio, ciao Agostino. Un bacio grande a tutti quanti, a tutte le persone che mi hanno seguito sia in streaming sia veramente a tutto il mondo, quindi vi ringrazio. E un bacione grandissimo, grazie ancora, siete veramente carinissimi, grazie. E in bocca al lupo per da domani sera in poi. Crepi il lupo, ciao. Padova ti aspetta, Grazie. Ciao Marta. Ciao. Ciao, ciao. Inizia qui la storia che che strofe racconterò. Parla di me, di cose mie, di spine e gemme, di grandine. E chissà, musica sarà, sarà. finisce qui la storia che non vuoi sentire, chissà perché. Una stella cadrà, musica sarà. Sincronizza il battito del cuore.